10. Ascolta e controlla. Piero, Nicola e Paolo sono appassionati di auto d'epoca. Piero ha degli inviti per una mostra e chiede ai suoi amici di andare con lui. Partiranno alle 8 e saranno alla mostra dopo 2 ore di viaggio in macchina. Useranno la nuova macchina di Paolo. Gino, il fratello di Paolo, non andrà con loro perché dei colleghi di lavoro andranno a cena da lui. Quindi saranno in 3 a visitare la mostra. Torneranno a casa la sera.